Per un'ora intera vagarono dentro quella fabbrica inconsueta, finché lo spazio intorno a loro si fece più ampio. Si cominciava a sentire un soffio d'aria fresca, anzi fredda, come se venisse raffreddata. Le colonne che si muovevano in ogni direzione si erano diradate ed essi si trovarono di fronte all'imboccatura di un'enorme chiocciola formata da diversi piani con il tetto a volta. Dall'alto scendevano rami arcuati, da cui precipitava una grandine di oggetti vari e lucenti. Questi oggetti ripiombavano nella chiocciola in un punto che non riuscivano a vedere poiché era alcuni metri sopra le loro teste. Ed ecco che la grigia convessità della chiocciola cominciò a dilatarsi. Qualcosa la muoveva dal di dentro ed essa aumentava di volume. Involontariamente indietreggiarono, tanto era impressionante quel rigonfiamento grigiastro che continuava ad aumentare. Ad un tratto si spaccò senza rumore e da un'apertura rotonda scaturì un fiume di corpi neri. Stanislav Lem, Pianeta Eden.